domani. Questo è Canale 24, reportage dal futuro di Maurizio Melis. Benvenuti a Canale 24. Come produrremo energia tra 50 o 100 anni? La notizia dal futuro da cui vogliamo partire stasera ci presenta uno scenario possibile, per non dire probabile. Sentiamo. L'IEA, l'International Energy Agency, ha annunciato poche ore fa che secondo le sue stime l'anno in corso segna il superamento di una quota simbolica. Il 50% dell'energia, infatti, viene oggi prodotta negli oceani. La IEA, nel corso della conferenza stampa, ha presentato uno studio che indica come questo trend sia iniziato nella prima metà del XXI secolo, con la diffusione di sistemi per la produzione di energia da moto ondoso. Nonostante il declino nella produzione di idrocarburi oceanici, l'oceano ha continuato a contribuire sempre di più al fabbisogno energetico del pianeta, con l'energia eolica ad alta quota, con la diffusione sempre maggiore della coltivazione di biomassa algale destinata alla produzione di carburanti. Infine, con lo spostamento progressivo delle centrali nucleari al largo delle coste. La IEA prevede tuttavia che questo trend stia per esaurirsi. L'utilizzo dell'energia solare, infatti, largamente diffuso sulla terraferma, contribuisce già al 40% della domanda di energia. E chissà che non vada proprio a finire così, con una parte maggioritaria dell'energia prodotta da un mix di rinnovabili ed energia nucleare in quella immensa distesa di acque che sono gli oceani. I segnali non mancano nemmeno in Italia, sentite. Dai primi di agosto c'è ISVEC che galleggia ancorato al largo di Pantelleria. ISVEC è il primo esemplare in scala 1 a 1 di sistema offshore per la produzione di energia elettrica dalle onde del mare, che promette, se non la competitività con i fossili, quantomeno la competitività con altre fonti di energia rinnovabile come il vento o il sole. Parliamo di una grande zattera di oltre 15 metri di lunghezza, a tenuta stagna, al cui interno, al riparo dall'ambiente aggressivo del mare, si trova un grande giroscopio, una grande trottola, un volano di 7 tonnellate di peso che viene messo in rapida rotazione. I giroscopi hanno una caratteristica affascinante, tendono a mantenere sempre lo stesso orientamento. Se si cerca di cambiare l'asse di un giroscopio in rotazione, lui risponde con una forza che cerca di riportarlo indietro. Questo stesso gioco di forze, che si viene a creare tra il giroscopio e la piattaforma galleggiante che oscilla a causa delle onde, viene sfruttato a bordo di ISVEC per produrre energia. La possibilità di variare il numero di giri del giroscopio rende ISVEC capace di adattarsi a vari tipi di onda, una caratteristica unica, almeno per ora, nel panorama internazionale e particolarmente importante per riuscire a ricavare energia da un mare relativamente tranquillo come il Mediterraneo. Oltre a ISVEC, un'altra tecnologia per la produzione di energia elettrica dal mare è in fase avanzata. Si tratta di REVEC 3, una speciale diga foranea composta da grandi cassoni cavi che ospitano al suo interno un sistema per trasformare in energia il moto ondoso che li colpisce. Sottraendo energia alle onde, inoltre, questa speciale diga riduce il moto ondoso riflesso dalla costa, che può rendere difficile l'accesso a un porto. Non a caso il porto di Civitavecchia, che sta costruendo una nuova diga che prevede l'integrazione di questa tecnologia, l'ha posizionata all'ingresso dell'insenatura su cui sorge. Una volta completato, sarà il primo esempio di generazione di energia dal mare su media scala in Italia. Anche l'energia eolica potrebbe essere quasi costretta a migrare sull'acqua se prenderanno piede le tecnologie che vanno sotto il nome di eolico troposferico. Parliamo di riuscire a intercettare i venti di alta quota. Finora le pale eoliche si sono spinte fino a 200 metri dal livello del suolo, ma più si sale e più i venti diventano intensi e regolari. E basta un 25% in più di velocità del vento per raddoppiare la resa di un impianto eolico. Tuttavia, per abbattere il muro dei 200 metri e salire fino a un chilometro o due a intercettare i venti troposferici bisogna cambiare completamente strategia. Niente più grandi tralicci, tanto per cominciare. Bisogna staccarsi da terra e volare, e sarebbe molto più facile farlo sul mare. Sono una ventina le start-up nel mondo che ad oggi stanno sviluppando progetti per riuscire a intercettare i venti che spirano tra gli 800 e i 2000 metri. È proprio l'italiana Kitegen che ha sviluppato una tecnologia leggera basata su grandi aquiloni dal profilo del